Dunque, se si leggono le tre opere che sono state scelte ad oggetto del nostro incontro, dal punto di vista specifico del tema dell'eguaglianza, siccome queste tre posizioni, Morelli, Rousseau e Mably, sull'eguaglianza, come dirò in particolare, sono non solo simili, ma in larga misura coincidenti, e quindi renderne conto sarà anche forse talvolta inevitabilmente un po' ripetitivo, ma non è solo su questo che cercherò di soffermarmi, sia un'impressione, secondo me è molto istruttiva questa lettura in qualche misura sinottica, perché si ha l'impressione che nella Francia tra la metà esatta del Settecento e i primi vent'anni successivi, quindi siamo proprio alla vigilia della rivoluzione, tra il 1750 e il 1776 è l'opera di Mably sulla legislazione, funzionasse una sorta di intelletto generale, di intelletto comune. Kant nel 1790, molto prima, perché quando si dice intelletto generale si pensa subito ai Grundrisse, no? Ma in realtà l'idea dell'intelletto generale è settecentesca, perché Kant nella Critica del Giudizio dice proprio testualmente il Gemeinverstand, no? Esiste proprio un intelletto comune. Lui pensa al senso comune, però in realtà è l'esperienza di una, come dire, di un orientamento condiviso, del fatto che si pensa collettivamente. C'è una frase di Kant che è geniale da questo punto di vista. Lui dice, apparentemente non ci si può impedire di pensare. Dice, non è vero, perché se ci si impedisce di comunicare, ci si impedisce di pensare, perché in realtà la comunicazione è costitutiva del pensiero. Quindi il pensare come impresa collettiva. Ora, l'impresa collettiva dell'intelletto comune della, oggi diremmo, sinistra estrema del mondo philosophique in Francia, sull'eguaglianza la pensa largamente nello stesso modo. E le cose che leggiamo nel Code de la Nature, nel secondo discorso di Rousseau e nell'opera tarda di Mably sull'eguaglianza sono molto consonanti, direi largamente condivise. Non sono le uniche opere, ma certamente queste tre opere da questo punto di vista sono molto simili. Allora, io farei adopererei il tempo in questo modo. Per 10 minuti, un quarto d'ora, vi renderò conto diligentemente di che cosa queste tre opere, soffermandomi meno su Rousseau perché è stato ampiamente rappresentato, contengono soprattutto in relazione al tema dell'eguaglianza. Il restante tempo però io vorrei dedicarlo ad una riflessione che problematizzi questo punto di vista che, come dico, è comune ai tre, dalla nostra prospettiva, perché è interessante che cosa si può pensare della concezione settecentesca che la parte più radicale del partito filosofico, che è già in polemica non a caso col partito filosofico in senso proprio, ecco, che cosa dal nostro punto di vista si può dire di quella concezione dell'eguaglianza, storicamente, non politicamente, storicamente, cioè quale bilancio noi possiamo fare. Allora, Morelli pensa che il presente, la società contemporanea nella quale vive la Francia del XVIII secolo e più in generale l'Europa, sia una società profondamente iniqua, intollerabilmente iniqua, e questo perché le leggi hanno istituito una, scrive, mostruosa distribuzione dei prodotti della natura e dei suoi stessi elementi, dividendo, lui dice, ciò che doveva restare indiviso. Allora, ciò che doveva restare indiviso sono i mezzi di produzione. Loro parlano di mezzi di produzione? No, parlano di terra. Noi che abbiamo l'onere del senno di poi, possiamo dire che in una società agraria, agricola, la terra sono ciò che per noi, società industriale o post-industriale, sono altri strumenti di produzione, ma dal punto di vista di una costruzione logica della teoria politica, se si denuncia la iniqua distribuzione della terra, è come se noi oggi denunciassimo la iniqua distribuzione e appropriazione privata dei mezzi di produzione e di riproduzione. Cioè l'idea è ciò in virtù, grazie a cui una società si riproduce, non deve essere proprietà dei privati, perché c'è una asimmetria intollerabile tra il diritto collettivo alla riproduzione e l'interesse particolare di chi divenisse proprietario di questi mezzi. Quindi, come voi vedete, non c'è una discontinuità rispetto poi a un certo sviluppo ottocentesco di questa critica. Da questo punto di vista io dissento un po' dall'idea gariniana che è stata presa da Gabriella prima, cioè io penso che realmente ci sia una polemica contro la proprietà privata, che la polemica contro la proprietà privata sia interessante precisamente perché allude ad una fondazione materialistica della critica della corruzione della relazione sociale, cioè si dice, certo è venuta meno la relazione sociale e una sintassi morale della relazione sociale, ma perché? Perché ci si è appropriati privatisticamente di ciò che invece doveva. Quindi c'è proprio una fondazione materialistica del pensiero morale o della critica morale, dal mio punto di vista, poi magari è un po' forzato, ma insomma. Certo che tanto Rousseau quanto Morelli sono da questo punto di vista assolutamente espliciti. La causa di tutti i mali è la proprietà privata, che è una usurpazione. Leggo, tutte le divisioni uguali o ineguali di beni e tutta prego. Tutte le divisioni uguali o ineguali di beni e tutta la proprietà privata di queste parti sono in ogni società quel che Orazio chiama summi materiam mali. Chiaro, esplicito, direi apodittico di questo non si può. Se questa è la società oggi, la critichiamo da che punto di vista? Il criterio ce lo dà la natura. Naturalmente il grande, gigantesco problema di tutte queste opere, in particolare del giusnaturalismo critico, è giustificare una certa idea o rappresentazione di natura. Questo sarà un enorme problema per tutti, no? Però fatto sta che Morelli, al pari di Rousseau, al pari di Hobbes, di altri autori qui richiamati, una certa idea di natura ce l'ha. E che cosa caratterizza la natura? Precisamente il fatto che le proprietà sono indivise, scrive Morelli. A garanzia della comune felicità, la natura ha distribuito le forze dell'umanità in differenti proporzioni, le forze dell'umanità, cioè le capacità, i talenti, l'intelligenza, la forza fisica, in differenti proporzioni fra tutti gli uomini della specie, ma ha lasciato indivise le proprietà del campo produttivo dei propri doni. Guardate com'è interessante il campo produttivo, no? A proposito delle forze produttive, dei mezzi di produzione. Le ha lasciate indivise, a tutti e a ciascuno l'uso delle sue liberalità. Il mondo è una tavola imbandita a sufficienza per tutti i commensali, i cui cibi della tavola appartengono ora a tutti, perché tutti hanno fame. Qui, questa è l'idea comunistica che ispira Morelli e che ne sancisce in qualche misura l'ostracismo, la marginalità e certamente la clandestinità, ma indubbiamente la ragione ispiratrice della critica politica del Code. Ci sarebbero molte altre citazioni, ma il punto saliente qual è? Il punto saliente è che la politica deve ripristinare la comunanza dei beni della natura. Questa è l'idea di fondo. Il criterio di base del recupero della natura come garante della felicità comune in virtù della comunanza dei beni è data, altro elemento di comunanza con Rousseau, da una certa idea delle comunità naturali non corrotte. Cioè il primo stato di natura, dice Rousseau, prima dell'insorgenza della proprietà privata, era uno stato di natura armonico, caratterizzato da un equilibrio sano tra l'egoismo che provvede alla conservazione degli individui e la solidarietà, per cui certo ci si tutelava, ma non a spese degli altri, se non quando era inevitabile, non c'era un orgoglio distruttivo, non c'era una vanità distruttiva, non c'era una smania di accumulazione di ricchezze e di poteri. Se noi andiamo a vedere qualche comunità di selvaggi, ritroviamo questa armonia naturale. A queste comunità di selvaggi dobbiamo ispirarci. Questo vale tanto per Rousseau quanto per Morelli. E la cosa più interessante di entrambi, da entrambi condivisa, ma vale anche per Mably, è che in queste comunità, naturalmente trasfigurate dal pensiero filosofico, ma qual è il criterio in base a cui sono distribuiti anche inegualmente i ruoli sociali? Giacché in una qualsiasi organizzazione sociale è inevitabile una qualche ineguaglianza, aggiungerà Rousseau, purché non cristallizzata e quindi purché suscettibile di una rotazione delle prerogative, delle funzioni, dei ruoli, dei ranghi. Ma fondamentale, oltre a questa non cristallizzazione delle gerarchie sbagliato, delle differenti funzioni, è il criterio distributivo. E il criterio di distribuzione di queste funzioni è, badate, non il talento, ma il merito. Guardate che questa è una discussione che investe noi, la maledetta o benedetta questione della meritocrazia, che oggi sfonda nel cosiddetto pensiero progressista e che in realtà nel Settecento divise il campo della critica, perché da una parte c'è la componente filosofica in senso proprio, oggi diremmo moderato, dell'Encyclopédie, che si batte per i talenti perché rivendica le capacità e dice: noi siamo il sale della terra, i saperi, i mestieri, le arti, le capacità, contro la dimensione aristocratica e feudale. E dall'altra parte invece la logica del merito, e cioè non conta quanto tu sei bravo o capace, conta come investi le tue capacità. E se le investi pro domo tua particolaristicamente, non è una ragione che tu possa vantare per avere ruoli di direzione sociale. Questi ultimi vanno assegnati a chi quelle capacità investe nell'interesse comune. E quindi come, dice Morelli e lo stesso Rousseau, come servizi forniti allo Stato, dove lo Stato è la collettività. Quindi disuguaglianze rispettose della natura sono le diseguaglianze temporanee che premiano i servizi forniti alla collettività. Ripristinare la natura in quanto sollecita madre della che si prende cura della comune felicità e che rispetta i diritti naturali significa questo. Significa non dividere ciò che non va diviso e distribuire i ruoli sociali a misura delle opere che ciascuno di noi offre alla comunità. Questo è Morelli, vi assicuro, in larghissima misura questo è Rousseau. Non credo che si debba... Rousseau è molto più sofisticato, è anche molto più complicato, perché, per esempio, introduce una molto interessante distinzione tra le due forme di diseguaglianza. Gli uomini sono disuguali. Sono disuguali, per natura sono disuguali, quindi... Ma, dice Rousseau, lo sono per natura, per ciò che attiene alla forza, all'intelligenza, dice qualità dello spirito, forze del corpo, eccetera, ma il problema è come queste diseguaglianze di natura vengono tradotte nella diseguaglianza che lui chiama politica o morale. Ed è su questa traduzione che bisogna intervenire criticamente o costruttivamente. E il problema è che questa diseguaglianza morale o politica è criticabile perché si sostanzia in quelli che Rousseau chiama i privilegi, dove i privilegi sono le diseguaglianze godute a danno degli altri, cioè una... È consustanziale al tema della diseguaglianza politica e morale che qui e ora noi abbiamo, il fatto che qualcuno la paghi, che beneficia alcuni a svantaggio degli altri, è una sorta di gioco a somma zero, e il tema del gioco a somma zero è molto rilevante nel pensiero di Rousseau, anche nei suoi limiti, se volete. C'è una irrazionale distribuzione di questi privilegi, il fondamento, credo, sia la divisione della proprietà del bene comune per eccellenza, bene comune, per eccellenza, che non è l'acqua allora, perché non ci pensavano ancora, ma la terra. Da questa divisione iniqua per definizione della terra si origina il progresso della diseguaglianza di cui parlava prima Postigliola, questo progresso della diseguaglianza che è molto interessante perché Rousseau capisce, ma già lo aveva segnalato Hobbes, che la differenza delle ricchezze è differenza di potere, noi lo diamo per scontato, ma non è ovvio, all'alba dello sviluppo capitalistico intendere che la differenza di ricchezze è differenza di potere è già avere colto un migrare della sovranità dall'ambito della politica in senso proprio alla dinamica sociale e produttiva, e dal punto di vista propositivo, nuovamente, è l'insistenza sui meriti. Bisogna certamente che ci siano, oggi diremmo, dirigenti e diretti o governanti e governati, ma l'importante è che il governo o la direzione premi i servizi reali resi allo Stato. Notate bene che questi servizi reali sono compensati non coerentemente, non sono compensati con la ricchezza e quindi col potere, per cui il potere genererebbe potere e cristallizzerebbe le gerarchie. Sono compensati con la stima, con la reputazione, con la gratitudine dei cittadini. Quindi un'ottica che è fissa sul primato della sfera pubblica e della dimensione pubblica. È proprio un pensiero della generalità e della primazia della dimensione collettiva. Io qui ho una lettura un po' diversa anche da quello che diceva Alberto prima sulla proprietà. Sulla proprietà. Cioè, io penso che Rousseau sia contro la proprietà privata, sia assolutamente contro la proprietà privata in senso proprio. E lo dico considerando il modo con cui nel contratto sociale si definisce la proprietà privata. La proprietà privata è mera concessione. L'unico proprietario è il sovrano, cioè la collettività, e il particolare al privato è consentito fruirne nei limiti e nel modo in cui la collettività di volta in volta decide. È solo una sorta di prestito, di concessione in senso proprio. Finisco la questione Mably. Ecco, Mably è un caso in qualche misura più banale, non solo perché viene fuori il testo di cui si parla. Il grande Mably non è di questo testo, secondo me. Il vero Mably, vero nel senso che è quello che maggiormente si impegna, è il Mably che riprende Montesquieu nella storia della Francia e nella riflessione sui diritti e doveri del cittadino, e prende posizione nella grande questione che lacera effettivamente la Francia delle prerogative dei corpi intermedi. Questo è Mably, no? Che prende la difesa dei parlamenti, non sposa gli estremismi della storiografia nobiliare rivalutata da Montesquieu, ma attribuisce ai parlamenti, ai corpi intermedi, la funzione, un po' utopisticamente se voi volete, la funzione di arginare l'autocrazia monarchica. Questo è Mably, l'autocrazia della monarchia, no? Questo è quando nel 76 si trova a cercare di sistematizzare la sua concezione di democrazia egualitaria, in fondo ripete largamente Rousseau. Non so se ripeta Morelli, perché sulla fortuna di Morelli c'è un gigantesco punto interrogativo. Morelli non lo cita nessuno, però lo hanno letto, circola il codice della natura. Certamente non lo ha letto Rousseau nel 55, perché Rousseau il secondo discorso, ma non solo, ma poi lo ha già scritto nel 55, lo ha già largamente elaborato, anche se però, e per questo dico che sono significative queste assonanze, cioè c'è un sentire comune su questi temi, ovviamente in una certa... Per cui che cosa dice Mably? Ma siamo sempre lì, nella natura c'era la comunione dei beni, il compito della politica è restaurare l'uguaglianza nella ricchezza e nella condizione dei cittadini. E i dettagli vi assicuro che spostano davvero poco rispetto a quello che abbiamo detto dei due autori precedenti, semmai l'unica cosa, ma non vorrei sembrarvi distruttivo, ma insomma l'unica cosa che si può dire di quest'opera di Mably è che non se ne accorge nessuno, no? Anzi, in qualche misura le gazzette letterarie, che erano molto schierate politicamente, chiave moderata, per non dire in chiave anche lealista, gli danno un buffetto, dice sì, questo è un comunista, però voglio dire, è una brava persona, si può anche, e questo per dire che effettivamente la sua, a quel punto, tenete presente che nel 75 Turgot ha fallito, si chiude l'esperimento di Turgot, la posizione filosofica è ai margini, e quindi quello che questi dicono non viene considerato irrilevante, e questo è molto anche significativo del fatto che mentre il sottosuolo ribolle la politica si illude che è tutto tranquillo, no? No, questo è vale anche questo per noi. Allora, dicevo, che cosa, ultimi 5 minuti, certo. Che cosa si può imparare da questa triade, che però sta dentro sulla stessa posizione. Io riflettendo vi proporrei questo schema, che è tagliato con l'accetta, opinabilissimo e volutamente tendenzioso, però forse in grado di darci una chiave o quantomeno uno spunto. E aggiungerei in grado di dare molto peso al titolo, che se non mi sbaglio è La modernità incompiuta, no? Io poi mi sono domandato perché incompiuta a fronte di Rousseau, Mably, Morelli. Ecco. Io direi incompiuta, no? Allora, siccome sono distratto, molto distratto, pensavo che dicesse incompiuta, ma prendiamola per incompiuta. Prendiamola per incompiuta. Perché? Perché se, come penso si può sostenere, il processo di uguagliamento delle condizioni, direbbe qualcuno, intellettuali e morali per un verso e materiali per un altro, è la sostanza della modernizzazione, in senso lato, della modernità come processo di trasformazione, nel senso quindi di un ampliamento dell'insieme dei soggetti ai quali è riconosciuta soggettività, cittadinanza, titolarità di diritto, se questa è la modernità, io penso che rispetto a questo processo, tra la fine del 700 e i giorni nostri, compresi i giorni nostri, si sono avute tre posizioni rispetto a questa freccia della modernità, che è il processo di eguagliamento. Tre posizioni fondamentali. La prima è la reazione castale di rifiuto della modernità, che mira a restaurare la trasmissione ereditaria delle condizioni sociali, cioè la logica di riproduzione delle società di antico regime. Trasmissione ereditaria. Potremmo definire questo un modello oligarchico che, notate bene, vive anche dopo le rivoluzioni borghesi, perché corrisponde, qui si potrebbe pensare al grande libro di Mayer, no? sulla lunga sopravvivenza dell'antico regime, che corrisponde alla feudalizzazione della borghesia. C'è una rifeudalizzazione, una feudalizzazione della borghesia, che mira al ripristino di gerarchie stabili, dove la parola chiave è stabili. Di questa posizione noi abbiamo una versione soft, che è il mito paternalistico, che troviamo anche nei padri di una certa tradizione liberale. Constant pensava alla plebe come moltitudine bambina, quindi bisognosa di guide, e credo che si potrebbe argomentare in modo abbastanza aderente ai testi che questa bambina, che è la moltitudine, è una bambina un po' particolare perché non cresce. E poi abbiamo una versione hard di questo rifiuto della modernità, che sono i regimi fascisti, che si legittimano con un pensiero della diseguaglianza di tipo essenzialistico, cioè il razzismo. Il razzismo è questo, è che le diseguaglianze sono per natura e sono fisse. Allora, questo è il primo modello, francamente reazionario e autoritario. Poi c'è una declinazione elitaria di questo modello castale. Cioè, si rifiuta realisticamente l'utopia o la distopia del ripristino di gerarchie stabili. Cioè, si prende atto che la società di status non c'è più. Ma si punta al riconoscimento della diseguaglianza, che si interpreta nei termini dei talenti e delle capacità. Noi siamo diseguali, bisogna che la società riconosca questa diseguaglianza di capacità e talenti, ed è nell'interesse stesso della società tale riconoscimento. perché è razionale la prevalenza dei migliori. Conviene a tutti che siano i migliori a governare. Quindi un modello, se vogliamo, se il primo è di tipo oligarchico, proprio perché è caratterizzato da una stabilità delle differenze, questo è un modello di tipo aristocratico. E direbbe proprio Rousseau di aristocrazia elettiva, se vogliamo, no? Non di aristocrazia ereditaria, di aristocrazia elettiva, meritocratica in senso proprio. E dicevo, è questa la posizione dei filosofi, non quella di Morelli e di Rousseau. I privilegi che Rousseau critica sono in sé giusti se premiano i talenti, se premiano l'operosità, come dicono D'Alembert e Helvétius. Il problema, dice Diderot, non sono i privilegi, è la loro inamovibilità. Inamovibilità. Questo è il problema. E c'è una frase di Diderot che da questo punto di vista è estremamente istruttiva. Se questo operaio è abile, si arricchirà. Se è un cattivo operaio, sarà povero. Quindi il problema è questo. Evitare che ad essere ricco sia il cattivo operaio. Consentire al buon e operoso operaio di arricchirsi. Poiché l'agenzia distributiva sia il mercato, piuttosto che la politica, è ancora un altro discorso, ma quello che conta è che ci sia una corrispondenza tra talenti e capacità individuali e ruoli sociali. Io penso che questo sia il presupposto del liberalismo. Se il primo è il presupposto del fascismo, questo è il presupposto del liberalismo otto-novecentesco, che richiama una posizione locchiana, e che nell'Ottocento, guardate però, diventa, soprattutto nel tardo Ottocento, dopo il bagno di sangue della Comune, ma già dopo la fine del terrore, quindi dopo la Restaurazione, quindi già per tutto l'Ottocento, diventa una posizione fortemente antioperaia. Fortemente antioperaia. Perché l'accusa che rivolgono già gli ideologhi al terrore è di avere soffocato i talenti. Il terrore ha soffocato i talenti. L'iniquità del terrore e della violenza operaia, della violenza giacobina, della violenza della populace o della racaille, è avere soffocato i talenti. Anche in questo caso, come nel primo, abbiamo una versione soft e una versione hard. La versione soft del mito paternalistico, in questo caso declinato in modo dinamico, sono le teorie delle élite, e la versione hard è il socialdarwinismo. Ecco, infine noi abbiamo la posizione dei... è il socialdarwinismo, sono le posizioni socialdarwiniste, cioè le posizioni del razzismo dinamico, del razzismo meritocratico. E poi abbiamo infine la posizione dei nostri autori, che è stata sintetizzata, sulla quale non ritorno, che ha un presupposto di antropologia egualitaria, quindi noi non siamo essenzialmente diversi, le differenze, quelle che non attengono all'uomo malgovernato, ma all'uomo quale è, sono trascurabili, siamo tutti in condizione di occupare tutti i ruoli. È un po' l'esempio che farà Gramsci del direttore d'orchestra, no? Che noi siamo violinisti, contrabbassisti, flautisti o direttori d'orchestra è meramente accidentale o contingente, i ruoli possono circolare, non è affatto detto che colui il quale dirige oggi debba dirigere anche domani in virtù di non si sa quale superiorità, come dire, immanente o intrinseca. Ecco, la mia sensazione è che messi così, allora tutti e tre gli autori stanno dentro quest'ultimo che, se vogliamo, è il modello democratico, allora abbiamo detto un modello oligarchico, un modello aristocratico e un modello democratico che ha un presupposto fortemente egualitario, che ipotizza reciprocità e circolazione dei ruoli di direzione, è chiaro che se la prendiamo così, mettiamo in sequenza questi tre modelli, ipotizziamo che la modernità, è chiaro che tutta è un'ipotesi concettuale, si può discutere, anzi storicamente è discutibilissimo, ma concettualmente costruiamo l'idea di modernità sulla base del progresso dell'eguagliamento e quindi diciamo in un passaggio virtuale dal modello oligarchico al modello più ampio inclusivo aristocratico ad un modello ancor più inclusivo di tipo democratico, allora la modernità è incompiuta. Perché tolte alcune forzature contingenti e di breve periodo, il terzo modello non ha vissuto. Le opere Rousseau, Mably, Morelli sono opere, noi potremmo dire, di fantasia politica, di immaginazione politica, di proposta politica, ma che non hanno trovato una applicazione, bene o male che questo fosse, auspicabile o meno che questo fosse. L'Otto e il Novecento si sono largamente stabilizzati sul modello che abbiamo definito aristocratico. E da questo punto di vista concludo con una citazione che mi sembra illuminante, tratta ancora da Gramsci. Cioè, Gramsci, arrivato a un certo punto, riflette sulla periodizzazione della Rivoluzione francese e dice: quando finisce la Rivoluzione francese? Nel 1789, 1793, 1830, 1848, 1871, dice, a seconda di come la si voglia impostare, lui pensa che la lunga rivoluzione, tra sussulti, colpi di coda, regressioni e avanzamenti, si può definitivamente considerare conclusa nel 1871. E perché è conclusa nel 1871? Perché scrive: in quel momento lì, col tentativo comunalistico e col bagno di sangue, ovviamente, della Comune, dice, si esauriscono storicamente tutti i germi nati nel 1789. E perché si esauriscono? Perché non solo la nuova classe che lotta per il potere, quindi la borghesia impegnata nella propria rivoluzione, non solo, dice, sconfigge i rappresentanti della vecchia società d'antico regime che non vuole confessarsi decisamente superata, e quindi finalmente la resa dei conti con l'aristocrazia feudale d'antico regime si può dire conclusa col 1871, ma questa nuova classe sconfigge anche i gruppi nuovissimi, cioè il proletariato della Comune, che sostengono già superata la nuova struttura sorta dal rivolgimento iniziatosi col 1789. Quindi nel 1879 le carte, i giochi sono fatti. Chiusa la storia dell'antico regime, ma chiusa anche sul nascere, battuta sul nascere, l'utopia democratica. Questo è il bilancio di Gramsci. Poi Gramsci, come voi sapete, la pensa diversamente, la storia non è finita, c'è stata la rivoluzione d'ottobre, certo c'è il fascismo, insomma tutta un'altra storia, noi siamo in un'altra epoca. Ho l'impressione che comunque questo bilancio valga, e cioè almeno a tutt'oggi il modello che possiamo riferire a Morelli, a Mably e a Rousseau rimane nell'immaginario della politica, e invece la realtà ha premiato gli altri due modelli variamente, e penso prevalentemente nella modernità il modello che abbiamo definito aristocratico. Vi ringrazio.